Oggi la carrozza può sembrare un curioso avanzo dell'antichità. Tutti vogliono correre e volare, amano soltanto la velocità. Se però tu sei con la tua bella sul taxi, di certo non la porterai. Però sopra ad una carrozzella col tuo dolce amore a passeggio andrai. Com'è delizioso andare sulla carrozzella, e sulla carrozzella sotto braccio alla tua bella. A casetta sta il cocchier, né ci perde d'occhio, guarda dentro il cocchio, poi sorride e chiude un occhio. Il cavallo sa come deve andar, se c'è una coppietta correre non va, bella è la città e poi non c'è fretta. Com'è delizioso andar sulla carrozzella, e sulla carrozzella sotto braccio alla tua bella. Lenta se ne va la carrozzella che mi porta a spasso col mio dolce amor. La serata è calma e tanto bella, e felici tanto sono i nostri cuor. Torneremo che in cielo c'è la luna, tante tante cose dolci ti dirò. Conteremo le stelle ad una, e per ogni stella un bacio ti darò. Come delizioso andare sulla carrozzella, sulla carrozzella sotto braccio alla tua bella. A casetta sta il cocchio, non ci perde d'occhio, guarda dentro il cocchio, poi sorride e chiude un occhio. Il cavallo sa come deve andar, se c'è una coppietta correre non va, bella è la città e poi non c'è fretta. E com'è delizioso andar sulla carrozzella, e sulla carrozzella sotto braccio alla tua bella. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.